Ritroviamo la regista Antonietta De Lillo perché porterà in tour a partire dal 9 marzo alla Stradoc di Napoli due suoi lavori, il signor Rotpeter e i Promessi Sposi. Antonietta, ben ritrovata. Salute a tutti. Allora, ci racconti un po' di questo tour? Allora, il tour è ormai si sa, e l'ho visto anche con gli altri lavori, con La Pasta, La Porta Accanto, Oida, Film Partecipato, che esiste, diciamo così, una rete di sale, luoghi che programmano in qualche modo documentari, film fuori, film di del reale, film che non sono facilmente classificabili e che apparentemente non hanno un grande mercato, invece sono proprio i film che in qualche modo stanno sempre più lentamente e per una piccola nicchia di persone, comunque crescono. Basti pensare appunto all'Apollo 11, seconda tappa delle Metamorfosi napoletane, così ho intitolato l'accoppiamento di questi due lavori molto, a cui ovviamente tengo molto, perché il primo, Promessi Sposi, è stato il primo ritratto che ho fatto nel 1993, quindi è quasi un oggetto, non voglio dire d'epoca, ma sicuramente di modernariato, che vinse il secondo premio al Festival Giovane di Torino, quindi ero emozionata, contenta, felice. E come sono stata felice, strafelice, quando appunto il più recente ritratto, il signor Rotpeter, è stato selezionato dalla sezione ufficiale al Festival di Venezia quest'anno. Io mancavo al Festival dal 2005, anno per me, voglio dire, molto significativo, perché è stato l'anno, diciamo, dove ho realizzato il film noto, che è Il resto di niente, però è stato anche l'anno da lì ad oggi non ho ancora fatto un lungometraggio. E il signor Rotpeter invece è un piccolo videoritratto fantasy, difficilmente, cioè, è difficile dire, è un documentario, è finzione, è la storia di una scimmia che è stata costretta a diventare non donna ma uomo, e quindi un personaggio assolutamente inventato non da me ma da Kafka, e interpretato in maniera veramente straordinario da Marina Confalune. E questo personaggio così inventato, invece assolutamente immerso in una realtà, ci parla dell'oggi e sembra un personaggio che potremmo incontrare la sera a cena e poterci parlare con lui. Quindi è un'unione tra realismo e fantasia, direi. A proposito di Promessi Sposi, visto che è un po' più lontano nel tempo, ce lo descrivi? Promessi Sposi è una storia, mi piace dire che è quasi un videoritratto, un giallo, perché inizia con questi due, un uomo e una donna che raccontano la prima volta che si sono incontrati, però ci sono dei dettagli sul corpo di lui che ci fanno intuire che qualcosa è successo. E infatti qualcosa è successo, perché è il racconto di una metamorfosi, è il racconto di un lui che prima era una lei, ma raccontato, insomma, è, come dire, l'ho rivisto quasi come se fosse una spettatrice. E penso che la cosa sorprendente di quel lavoro, per cui oggi lo ripropongo e a me è piaciuto rivederlo, è che non si parla di una storia omosessuale, ma si parla di una storia d'amore. Ecco, quello che si capisce, e soprattutto l'idea che questa storia, questo è anche raccontata in maniera molto semplice, perché sono due persone modeste, napoletane, entrambe. Quindi questi due ritratti vengono accostati da due cose, che tutte e due raccontano la storia di un cambiamento necessario per entrambi, ecco. E secondo me in questi cambiamenti, in queste metamorfosi, tutti noi ci possiamo rispecchiare. Perché c'è una cosa che si dice sempre, che a volte noi diciamo, noi non cambiamo mai. Invece non è, io non credo che sia vero, io credo che cambiamo sempre. Quindi la cosa forse più giusta da fare è quella di indirizzare il nostro cambiamento. Antonietta, Metamorfosi napoletane in contemporanea al tour uscirà anche in DVD. Anche in DVD perché, voglio dire, è iniziata questa collaborazione con Cecchigori che ha iniziato a pubblicare tutti i miei lavori, perché io sono un autore abbastanza introvabile, cioè mi devi proprio cercare. Quindi ringrazio Cecchigori perché ha pubblicato da mezzo di niente in poi tutti i miei lavori ed è mia convinzione che ormai le finestre devono essere un po' rivoluzionate, cioè è più bello stare in una sala, andare all'Astra, hai visto cioè, dei lavori che non, secondo me non si esauriscono in una sola visione e poterli rivedere a casa, oppure viceversa, la possibilità di una persona che è andata a cinema ha beccato in giro per l'Italia le metamorfosi napoletane e lo vuole rivedere. Cioè, secondo me bisogna iniziare a ragionare che le piattaforme non si devono aprire una alla volta, ma si possono aprire insieme. E d'altronde, se pensiamo ad esempio la linea verticale di Mattia Torre, anche lì è sempre un prodotto super tradizionale, bellissimo peraltro, è stato prima dato via internet e poi in televisione. Insomma, bisogna un po' rivoluzionare anche l'idea di distribuzione di un prodotto. E quindi da domani, in realtà dal 9, sarà possibile anche acquistare il DVD di Metamorfosi napoletane. Oltre all'Astradoc e all'Apollo 11, sono già fissate alcune date che ci puoi dare, Antonietta? Guarda, lo stiamo facendo perché non so perché quest'anno vola velocissimo, ma io immagino sicuramente come è successo negli altri lavori, Bologna, Milano e seguiteci comunque in quelli che si chiamano i social ora, dove noi siamo abbastanza attivi e quindi c'è sia Mare Chiaro Film che il signor Peter e sarete super informati. Benissimo. Allora, un abbraccio, ricordando l'appuntamento di venerdì 9 marzo all'Astradoc di Napoli. Antonietta, a presto.